e che basti presentarsi per fare successo, invece per fare successo ci vogliono anni e anni. Dimmi tu dei nomi usciti da X Factor o da Amici, per esempio, che abbiano resistito più di tanto, 2 o 3 in 15 anni. Non è molto difficile, è una cosa complicatissima. Sì, ma poi anche il velinismo, come l'hai chiamato tu, no? Non è che per forza, per essere felici o per avere una vita equilibrata, bisogna fare televisione. No, al contrario. Cioè, si può anche andare a scegliere un lavoro normale, come direbbe Nanni Moretti, no? Che cosa c'è di male di andare a lavorare in banca, per ma dire? Ma naturalmente o fare il parrucchiere oppure fare il tabaccaio, va benissimo. Poi i tuoi hobby te li coltivi a casa, ma questo è normale. Ma è purtroppo tutta una società, è un modo di vivere edonistico, e questo lo sai anche tu, Elisabetta, lo sappiamo tutti, che convince i ragazzi che se non fai così non sei nessuno. E invece non è, anzi, molto spesso proprio se fai così non sei nessuno, perché diventi un numero in mezzo a tutti gli altri. Qual è la tua canzone che in questo momento secondo te dedicheresti ai ragazzi del nostro paese, in questo momento storico? Quella che avete mandato prima. Questa è quella lì, allora ci abbiamo azzeccato. Benissimo. Che devono sognare, hanno perso la capacità di sognare. Beh, gliel'abbiamo tolta anche noi molto, eh? Devo dire che loro poverini vorrebbero sognare, però bisogna dargli continuamente forza ai ragazzi, di non abbattersi mai, di non chiudere mai alla speranza, mai. Sogna ragazzo sogna, poi una canzone del 99, e l'ho fatta quando sono andato in pensione per salutare i miei ragazzi del liceo. Poi ho continuato all'università, ma niente come il liceo, perché tutti i giorni con gli stessi ragazzi è una meraviglia. Allora, ringraziamo Roberto Vecchioni, che questa sera sarà in concerto al Rapallo. Abbiamo sentito dedica ai ragazzi di questo momento storico, Sogna ragazzo sogna, nel suo tour I colori del buio. Grazie Roberto. Ciao, grazie a voi, grazie Elisabetta. E noi attraverso questa bellissima rapsodia di Liszt ci immergiamo in un'atmosfera, quella di Città di Castello in Umbria, dove si sta svolgendo il Festival delle Nazioni di Città di Castello, appunto. E il presidente è un volto noto della televisione, il giornalista Giuliano Giubileo. Ciao Giuliano, come stai? Ciao, bene, ciao, buonasera a tutti. Allora, che aria si respira a Città di Castello? So che questa sera c'è il grande pianista russo, esatto. Grigori Sokolov, insomma, è un festival soprattutto di musica classica? Sì, sì, è un festival di musica classica dedicato ogni anno a una nazione diversa. Quest'anno è dedicato all'Ungheria, che è un paese con una straordinaria e ricchissima, insomma, tradizione musicale, e stasera ospitiamo Grigori Sokolov, che è un pianista nato in Russia, a Leningrado, però è considerato uno dei più grandi pianisti dei nostri giorni, quindi stasera c'è davvero un concerto eccezionale, farà musiche di Brahms, di Mozart, e insomma davvero una serata da non perdere, anche se mi rendo conto che chi ancora, come dire, non ha programmato di venire è ormai un po' tardi, però insomma naturalmente non è l'unico appuntamento importante, anche se stasera sicuramente è una delle date più significative del festival, perché Sokolov insomma davvero è uno dei più grandi pianisti, ha suonato in tutte le sale più importanti da concerto del mondo, con i maggiori artisti, insomma è un grande concerto. Però ecco, il festival andrà avanti fino al 7 di settembre, ci saranno molte altre occasioni per sentire buona musica, diciamo così. Senti Giuliano, questo festival quest'anno festeggia addirittura i 45 anni, sì. Quindi è oramai un must per chi si trova in Umbria in questo periodo. Arrivare lì, come si svolge? Cioè, i concerti sono in piazza? Sì, alcuni concerti sono in piazza, però la maggior parte dei concerti si svolgono dentro le chiese, che sono anche molto capienti, perché ci sono 2 o 3 chiese abbastanza grandi, e naturalmente c'è tutta la suggestione e anche la sonorità più diciamo, adatta a un certo tipo di musica, appunto in questi luoghi, in queste chiese dove avvengono i concerti. È un festival che appunto ormai è arrivato alla 45ª edizione, quindi si può definire un festival storico, e insomma si sta affermando in questi ultimi anni, mi pare anche di percepirlo, insomma, dalle cose che leggo sui giornali, appunto anche dal vostro interesse sempre di più tra diciamo gli appassionati di musica classica, ma non solo. Siamo riusciti a fare un'operazione che è sempre un po' difficile, però ci stiamo riuscendo, a Città di Castello, anche a coinvolgere un pubblico più giovane, perché per esempio in questi ultimi anni abbiamo fatto un'iniziativa che ha riscosso molto successo, cioè i concerti più importanti che si svolgono, appunto, come dicevo, nelle chiese, vengono proiettati, l'immagine del concerto e naturalmente la diffusione della musica viene fatta anche sulla piazza principale della città. Cosa spinge un giornalista come te, che generalmente si occupa di politica, a presiedere un festival di musica classica? Devo dire che, insomma, un po' me l'hanno chiesto e non me lo aspettavo. Io sono presidente di questa associazione da 5-6 anni, e quando me l'hanno chiesto devo dire che sono un po' caduto dalle nuvole, perché tra l'altro non mi considero nemmeno un grande esperto di musica classica, ma sicuramente un appassionato di musica, lo sono sempre stato. Però insomma, naturalmente le scelte artistiche le fa un'altra persona, il direttore artistico di grande livello che si chiama Aldo Sisillo, il maestro Aldo Sisillo. Però, e con lui andiamo molto d'accordo, perché anche condividiamo un po' l'idea di come deve essere, diciamo, un festival di questo tipo. E detto questo, poi è un'esperienza molto stimolante e divertente, mi sottrae un po', diciamo, alla noia del lavoro quotidiano e all'impegno, insomma, perché appunto combattere tutti i giorni con la politica, l'economia, lo spread, eccetera, è anche una specie di valvola di sfogo, insomma, quasi un hobby, però lo faccio molto volentieri. E mi pare che i successi che stiamo ottenendo siano, diciamo, confortanti, nel senso che io magari ci metto un po' di conoscenza del mondo della comunicazione, aiuto un po' il festival a farsi conoscere di più, ma insomma comunque è un festival che ha, insomma, come dire, conta su un numero di appassionati molto importante, insomma, appunto, non a caso dura da 45 anni, insomma. Allora, ringraziamo Giuliano Giubilei, che viene sottratto dalla politica e dall'economia, come abbiamo sentito, per andare a Città di Castello, al Festival delle Nazioni, dove presiede il festival, e ricordiamo che il festival andrà avanti fino al 7 settembre e che questa sera suonerà il pianista russo Grigori Sokolov. Grazie Giuliano. Grazie a voi. Da sole, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì. E allora, che il Mediterraneo sia, proprio al Festival Adriatico Mediterraneo noi andiamo, dove dopodomani, mercoledì 29, suonerà Eugenio Bennato. Buon pomeriggio Eugenio. Ciao, sentivo con nostalgia queste note, perché quegli archi, quei violini che sentite li ho registrati ad Algeri un po' di anni fa. Era l'orchestra della radio di Algeri e inconfondibilmente suono mediterraneo, suono magrebino nella mia composizione, che il Mediterraneo sia. Tu ti dedichi ormai spassionatamente a unire le varie anime di questo grande mare, che poi è quello che ha fatto la storia del mondo occidentale. E adesso che cosa stai preparando e quali sono le sonorità che stai scoprendo, visto che la tua musica è un misto di sonorità? Vedi, io le sonorità sono gli ingredienti, ma il punto è, è scrivere, comporre melodie, diciamo raccontare dei fatti. L'ultimo album, Questione Meridionale, che diciamo, in cui ho trattato di nuovo il problema e l'argomento del brigantaggio, cioè di questa lotta armata dei perdenti della storia, che poi sono i perdenti che esistono sempre in tutte le storie del mondo, cioè quelli di cui ci si dimentica perché il vincitore ne cancella le tracce. In ogni caso, dal Mediterraneo io traggo sonorità, ma anche energie poetiche. Noi siamo continuamente in giro in tournée, anche nei vari, recentemente sono stato per esempio in Marocco, poi andremo fra poco in Grecia, quindi voglio dire, questa unità, questo affiatamento di varie voci diverse è un fatto che, di cui posso rendermi conto proprio giorno per giorno, e penso che sia importante far fronte comune alle multinazionali con le loro sonorità standard e contrapporre invece una sonorità che fa parte delle nostre città, dei nostri mercati. Che impressione però ti sei fatto di quello che sta avvenendo nel mondo arabo, di queste rivoluzioni, di queste, poi c'è in questo momento anche il problema della Siria, no? Guarda, io ne ho parlato anche in quest'ultimo, in quest'ultima raccolta di brani, proprio perché eravamo, ecco, manco a farlo apposta, eravamo lì quando nel febbraio del 2011 diciamo, è deflagrata questa pacifica rivoluzione. È veramente un segnale fortissimo, importante. Posso darti delle testimonianze dirette di ragazzi, per esempio miei amici musicisti, i quali sono meravigliati del fatto che i loro genitori, tradizionalisti ad oltranza, oggi pensano che le cose siano cambiate, niente più come prima. Quindi voglio dire, i ragazzi della Tunisia, dell'Algeria, della Libia e dell'Egitto hanno ottenuto con il loro intervento diretto qualcosa che la storia aveva negato per decenni. E non pensi che ci sia questo pericolo molto intenso del fondamentalismo musulmano? Per quello che diciamo posso vedere io, viene vissuto questo integralismo come un estremismo molto emarginato. I ragazzi che hanno gridato kifeia, che significa basta, sui siti internet sono molto lontani da queste tentazioni. Tutti i pericoli ci sono, la storia è sempre in bilico fra pace e sommovimento, però direi che il motivo di fondo che ha scatenato la rivoluzione dei Gelsomini è un motivo sano e straordinario, di ragazzi che vanno verso il loro futuro, e questo è un orgoglio del sud del mondo. Quando tu incontri i popoli del Mediterraneo, no? Che effetto fa a loro il fatto che tu sia napoletano? Ecco, la tua napoletanità, come viene vista? Mi viene di raccontarti un episodio, manco a fare apposta, ancora in Algeria, di fronte a un pubblico molto diffidente, fatto di ragazzi molto tosti, no? della città di Algeri, questi vedevano sto gruppo europeo che arrivava, ero io con i miei musicisti, e c'era un po' di diffidenza, me ne accorgevo, lo si toccava proprio, però poi dopo i primi pezzi, quando incomincia a risuonare un tamburello che racconta delle cose spiazzanti anche per il pubblico italiano, no? Cioè sentire un suono di tamburiato, di pizzica, è sicuramente come dire, sconvolgente anche per il pubblico televisivo in Italia. E in Algeria invece loro, quando sentirono queste percussioni, capirono che c'era qualcosa di strano che apparteneva a loro, che ci accomunava. Infatti poi c'è stata un'esplosione di grande affiatamento. Uno dei ragazzi si è alzato e ha trascinato tutti gli altri a unirsi ai nostri ritmi, ai nostri balli. Quindi direi che c'è la sorpresa del riconoscere che dall'Italia esce una musica diversa, che la musica che fa parte tra l'altro delle nostre tradizioni. Allora, ringraziamo Eugenio Bennato, che suonerai con lo String Ensemble, giusto? Dopodomani ad Ancona, vi aspetto tutti, è un festival molto importante, tra l'altro saremo così con un ensemble di archi. E niente, è proprio intitolato al Mediterraneo, quindi sono in perfetta sintonia con questo festival. Ringraziamo allora Eugenio Bennato, che sta portando avanti questa sua ricerca. Ti potremmo definire un brigante della musica a questo punto, visto che fai anche questi studi sul brigantaggio, Eugenio. Fate voi, ma brigante in senso buono. Certo. E ricordiamo l'appuntamento al Festival Adriatico Mediterraneo di Ancona, dove suonerà dopo dopodomani con lo String Ensemble della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. Grazie Eugenio. Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao. Facciamo un bambino, eh? Un bambino nostro. Scusa, ma sono giovane? Ho solo 33 anni? E va bene, donna! Vuoi un bambino? Lo avrai! Avoli! Avoli! E noi abbiamo sentito questo spettacolo, beh, sicuramente uno spettacolo alternativo, Vita Nuova, Punti sulla Paternità, in scena questa sera la Compagnia della Pulce a Lecco, perché si sta svolgendo fino al 9 settembre il Festival del Teatro Popolare di Ricerca. Diamo il benvenuto a Luca Radaelli, il direttore artistico del festival, ma anche attore, regista, autore teatrale, insomma tutto. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a voi. Allora, a noi piace molto questo teatro popolare di ricerca, però ci devi spiegare, noi pensavamo il teatro di ricerca è quello lì un po' alternativo, no? Nelle cantine. Il fatto che poi possa invece essere popolare ci ha un po' stordito come definizione, ce la vuoi spiegare? Ma è molto semplice, non tutta la ricerca è cervellotica e astrusa e per pochi addetti, anzi nella maggior parte e negli esiti più favorevoli ci può essere ricerca e ci può essere invece una capacità di arrivare a qualsiasi tipo di pubblico. Noi scegliamo gli spettacoli su questa base e quindi abbiamo chiamato delle compagnie che fanno degli spettacoli di teatro canzone, di commedia dell'arte, di dei monologhi, insomma varie tipologie, ma con questa caratteristica comune. Senti Luca, a che punto è la ricerca del teatro in Italia? Perché mi sembra che il teatro stia vivendo un nuovo rinascimento malgrado i tagli ai finanziamenti. Sta vivendo un momento drammatico dal punto di vista sostanziale, perché appunto i tagli, ma non solo quelli diretti, anche quelli indiretti, perché noi naturalmente viviamo di rapporti con comuni, con province, con enti, con le scuole e tutti sono in crisi, quindi figuriamoci come possiamo essere. Nello stesso tempo però il teatro assume una forza grandissima per il fatto che al teatro vengono delegate anche delle cose che una volta forse appartenevano per esempio alla politica o alla filosofia, quindi non so, un artista come Marco Bagliani, per citare uno che parteciperà al nostro festival, è uno che può dare delle risposte di cui la gente ha bisogno e che la politica per esempio non sa dare più. Sì, anche perché le cose veramente innovative si cominciano a vedere ormai solo a teatro, no? Perché la televisione è sempre un po' più standardizzata, ci sono lo show business è molto molto che si rincorre l'uno con l'altro, X Factor che rincorre Amici eccetera, invece poi in teatro troviamo delle cose che sono abbastanza originali. Sì, infatti noi abbiamo scelto per esempio quest'anno di dedicare il festival alla Letizia, non alla comicità, perché quando si parla di comicità si pensa appunto alla televisione, al cabaret, alle cose un po' stupidotte e magari un po' anche trite ritrite, e invece ci sono spettacoli, commedie, monologhi che sanno far riflettere, che sanno far pensare, che parlano di noi oggi, qui e ora, e che però insomma possono anche essere divertenti e far sorridere. Con la Letizia noi ti salutiamo e ricordiamo appunto a chi si trova nei dintorni di Lecco di andare assolutamente al Festival del Teatro Popolare di Ricerca che si chiuderà il 9 settembre, quindi ogni sera c'è uno spettacolo diverso, anzi più spettacoli, no? In una serata. Grazie Luca. Grazie a voi. Thank you. E noi andiamo in questa atmosfera medievale e rinascimentale ad Anagni, dove si sta svolgendo un bellissimo festival che è proprio il Festival del Teatro Medievale Rinascimentale, diretto da Giacomo Zito. Buon pomeriggio, Giacomo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, che cosa succede? Come è andata l'apertura? Avete aperto il 24 agosto e quali sono gli appuntamenti dei prossimi giorni? Come no? Beh, abbiamo aperto il 24 agosto, ricordiamo insomma con grande soddisfazione il successo di Clizia con Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi, uno spettacolo straordinario di danza favorito dal gemellaggio del Festival Medievale di Anagni con il Festival Medievale di Elche in Spagna, e una bellissima edizione del Mefistofele, un adattamento di Veglia Viti con il grandissimo, applauditissimo Gino Curcione, che dai Teatri Uniti di Napoli è venuto a onorare il palco del Festival. I prossimi appuntamenti sono il 29, un interessante workshop aperto a tutti, proprio sulla, diciamo, l'approccio all'arte scenica, quindi estremamente divulgativo, e il 30 un bel convegno invece proprio del rapporto tra la scrittura scenica e la messa in scena, quindi la trasformazione del testo scritto e letterario in spettacolo, no? È un passaggio che magari non tutti tengono in considerazione, ma che a volte proprio trasforma radicalmente la scrittura drammaturgica originale in quella scenica. E poi altri tre eventi attesissimi, il 31, venerdì 31, Alessio Nino, uno straordinario giovane eclettico che si dedica alla pittura, alla musica, soprattutto anche alla scrittura, che realizzerà uno spettacolo plurisensoriale legato alla metempsicosi, che è anche uno dei temi di quest'anno del festival. Il 1 settembre, sabato, Duccio Camerini realizzerà Antonio e Cleopatra e io, di Duccio Camerini e William Shakespeare, e sarà quindi un'edizione critica di questo grande amore. E chiudiamo poi con l'ultimo spettacolo attesissimo, anche quello, Le lettere di Abelardo ed Eloisa, Storia di un amore sconfinato, con i grandissimi Massimo Venturiello e Tosca, sua compagna nella vita e anche sulla scena. Allora, insomma, Giacomo, è un bellissimo cartellone. Ricordiamo che gli spettacoli dove si svolgono? Nella piazza di Anagni? A Piazza Innocenzo III, una piazza di una bellezza che veramente lascia senza fiato. Questo dico a tutti i nostri ascoltatori: se non siete mai stati ad Anagni, venite, perché è una vera sorpresa. Non è un paese, è una vera e propria città dei papi, città medievale, con richiami storici in ogni suo angolo, con una bellezza panoramica mozzafiato, e con il Festival del Teatro Medievale Rinascimentale, quindi proprio con dietro il palco la visione della cattedrale. Venite ad Anagni, non c'è altro da dire. Gli spettacoli, allora, alle ore 21 abbiamo sentito, ricordiamo, fino a domenica 2 settembre, esatto, il Festival del Teatro Medievale Rinascimentale. Ringraziamo Giacomo Zito, il direttore artistico. Grazie. Grazie di cuore a voi, a prestissimo. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.